spostate tutto ciò che non contiene x dall'altro lato dell'uguale e poi dividete entrambe le parti per 3. Ma ricordate, ogni volta che spostate un termine oltre l'uguale, il suo segno cambia.